È raro mastico di chi non c'è. Lontana più di un maglione di lana, una pecora sarda non tossata in estate. Strana la vita, lo dico da un pezzo, piena di danni e capodanni per strambi di bambi, a sapore di dischi volanti e sparsi petardi, non tardi a baciarmi neanche ne parli. Dardi su giuride colpisco le vene gioviali, è tardi, ma forse diamanti in terra tocca lasciarle ai santi. Io di santi ne ho visti riuniti rioni per dirti di darmi i tuoi occhi e mendicanti, e lembi di tovaglie unte e medicamento. Io ho ferito che cammina a stento tribolando. Sei come un tormento per un ghiro che non riesce a dormire ed intanto riposa tra stenti. Sei un tradimento che saluta e poi bacia come ruota forata la bici di Bartali. In Bartali non possiamo incontrarci, lo sai che starei in anotroccoli brutti decenni tra compagni ed anarchici, metadone che balla dipinto di balla. Se bolo di sapone tra coriandoli di carnevale, colore smagliante, secondo d'effetto, di effetto di droghe leggere, legali, fotografate col cellulare. Lontana più di piazza Modena a Milano, il Duomo di Totò Peppino. Sto cretino, non si va a invaghire di creature create da porzioni di pozioni al sapore di mago Merlino. E cotolette misto sorsate di birre morette, tra letti e lattine di Ikea, divane a due piazze. Tavolata in cucina, ottima più che per mangiarci, per leccarci. Porzioni di cosce, lasci pure aperto il metano, se andrà tutto al purgatorio, mano nella mano. Come bimbi all'oratorio non c'è orario, la lezione italiano inizierà ieri, è già finita, ora iniziamo. Tra noi ed il voi, noi saremo tu ed io, noi diveremo poi noi per darci del tu, per darci baci ai lobby, al circolarci, torci, colli a starci, preghi il tuo Dio, prega ad aiutarci, ma dica di lasciarci in santa pace, in santa sede, sieda alla destra di chi tace, solo darci.